avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E comune di travagliere, se è corretto, dei lavoratori, come si dice? Travagliere, no? Solitamente si leva la vocale, invece in questo caso stiamo facendo un discorso. E je pense que c'est vraiment, vraiment important pour tout nous, votre investissement en Italie. Vous êtes les bienvenus. Merate l'abbiamo fatta. Ma vediamo un attimo se il Made in Italy. Aspetta, aspetta. Fatto in Cina. Mi spoglio se vuoi. No, hai già basta, fatto una parola. No, basta, non c'è scritto. No, per cortesia, no. Basta. Rimango a torso nudo se vuoi, però non è un bello spettacolo. Allora io vedo che me la toglio. No, il marchio è francese, mi pare. Però siamo in Europa. Siamo in Europa, qua l'Europa vale. Parle tout bas, je vois la vie en rose. Il giorno del francese, il francese, siamo passati al francese. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Vabbè, tutti quelli che mi criticano a dire che iniziamo spesso rock oggi, così, insomma, la vie en rose. Mercoledì alle 6.33 una nuova puntata di Evviva le Rosse con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Buongiorno Paoletta, buongiorno, la nostra buongiorno, generalessa. Milan, buongiorno. Che meraviglioso inizio. Vedi, che lo so, volevo farti svegliare dolcemente. Per tutti noi che ti ascoltiamo, che meraviglia. Abbiamo anche perso in mezzo il francese. I francesi che parlavano, ma che bellezza. Ma meraviglia, che cosa? La pronuncia di Renzi, intendi? Ma no, la via rosa. Ah, ecco. Che bella. Magari. Dell'umanità questa voce e questa canzone. Mi concede questo ballo? Mi concede questo ballo rossa? Ma qui ci stiamo dimenticando che chissà in quale parte di mondo, anche se ha mandato chiari segnali su Twitter, sì, si trovi il super direttore. Non so, in una parte di mondo nella quale non risponde al cellulare. Ma ecco. Pensa, ma vogliamo dire dall'altra parte dell'oceano, vogliamo dirlo? Ma infatti, non lo so, si sarà addormentato. Ma dov'è? Non lo so, anch'io stavo guardando adesso su Twitter, ho visto che... Sembrava New York. Sembrava New York. Ma sembrava New York. Comunque, sì, in ogni caso noi lo aspettiamo come si aspettano i regali a Natale e i bambini di prima mattina. Vediamo un po', Lorenzo, ma suona almeno il cellulare? Sì, suona il cellulare. Sta a New York? Dal suono ti sembra New York? Sta a New York. Oh, Vabbè, insomma, in ogni caso si sveglierà o ci risponderà, anche perché si sveglierà, sta dormendo, se a New York. Beh, ma sai, è mezzanotte e mezza. Ma, no, ma la vita è appena iniziata. Speriamo non l'abbia preso la CIA per fargli un interrogatorio. Mamma mia. No. Speriamo di no. Ce n'è una al giorno e ogni giorno più brutta. Il nostro Luca Dini. Vabbè, ma qui, se avete capito, sono le 6:34 minuti e c'è una nuova puntata con la Rossa, la nostra generalessa. Opening Parlamento. Yes. Apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Non so se avete capito, vabbè, ma c'era Matteo Renzi che parlava in francese, ieri era in Algeria per parlare della vendita di un importante investimento algerino in Italia. Che voto diamo? Un po' meglio col francese sulla pronuncia che con l'inglese? Io il francese non lo so, però. Ma io il francese sono al punto di noio, vola avanza voir di esatto, più o meno. Quindi mi fermo lì. Ma sì, ma buono il voto, via. Dai, buono. Si facciano gli investimenti, questo conta. Sì, però ha questo vizio, poi quando non riesce a spiegare, poi fa le lezioncine, perché di solito perde la vocale, non perché c'è il plurale di qui. Ma parla in francese se vuoi. Se non sei in grado, evita, no, Renzi. E poi non so se hai visto, ma ieri Floris è andato da Salvini, che dice: io sono tutto made in Italy. Gli ha controllato l'etichetta del maglione, era francese. Era francese, non era russo? Non era russo, no. Era comprato un cashmere russo? Non sono ancora arrivati i soldi. Non sono ancora arrivati i soldi. Lui che dice che è tarato, chi pensa che Putin sia un problema. E giustamente, si vede che non ha fatto shopping ai magazzini GUM. E quindi... I mitici magazzini GUM. Era francese. Era francese. La notizia è che Salvini fosse vestito. Eccola, vabbè. Perché attenzione, lui adesso ha messo in vendita, all'asta per beneficenza le sue fotografie. Sì. E questa la trovo invece una cosa buona, anche simpatica. Perché, dal punto di vista della comunicazione, guarda che è migliorato molto. Ieri ho letto, credo, su affariitaliani.it che c'è un pool di 5 persone capitanate da uno a Padova, credo. Adesso mi sfugge il nome, che controllano pianificano tutta la comunicazione. E che il santo li aiuti, visto che sono di Padova, insomma, nel senso. Sembrava più una frecciatina, No, ma scherzi, ogni volta Sant'Antonio, che Salvini parla e viene, ma Sant'Antonio sempre, insomma, voglio dire, che ci guardi e ci protegga sul serio, va bene, detto questo, andiamo avanti. Allora, Renzi in francese, ma c'è solo questa di Renzi, ma mi divertiva Renzi in francese. Renzi in francese sicuramente c'è diverte, questa, porca miseria. E c'è, insomma, voglio dire, e rimane quel principio in base al quale, ma io stessa, per carità... meno male che lui parla in lingue, no? Varie ed eventuali, ma devo dire sul francese invece è campione. È vero, sì, cantava le canzoni in francese, esatto. Allora, devo dire agli ascoltatori, non amano svegliarsi con un sorriso, subito arriva l'attacco di chi dice: vi attaccate al maglione di Salvini, siete proprio alla frutta, hai capito, cara Paola Saluzzi? Se vuole li raccontiamo di bambini che muoiono, di un padre che postava su Facebook... la notizia: mi faccio i complimenti da solo, oggi non ho ancora ammazzato nessuno. L'operaio di 38 anni che ieri è uscito armato di pistola dalla casa dei propri parenti o amici presso i quali sostava nella separazione dalla moglie. La moglie aveva denunciato ai carabinieri la paura che quest'uomo arrivasse e facesse cose. Lui è arrivato, ha sparato alla moglie, ha sparato al figlio di 5 anni e in ultimo ha sparato a se stesso. L'ultimo capitolo sinceramente ci interessa di meno. Ho visto che ti ha colpito molto giustamente, ecco, giustamente questa cosa. Siamo nelle Marche, se vogliamo. A Numana, e nessuno della famiglia di quest'uomo ha detto: ma magari ti do 4 schiaffi e te fermo, perché lo so che hai la collezione di pistole, aveva un porto d'armi regolare, lo so che ce l'hai, lo so che ti stai separando da tua moglie, lo so che stai uscendo da casa, magari ti seguo? vengo con te, ti controllo. Così purtroppo queste sono tragedie che capitano e ogni volta ci si stupisce a dire: ma come, tutti sapevano, molti conoscevano le abitudini, molti sapevano, e invece poi non ci sapevano. Però c'è un bimbo di 5 anni di meno sì. al mondo, e una donna terrorizzata di meno al mondo, che era la madre. C'è un bambino che è morto in una condizione in cui in provincia di Ragusa, dobbiamo ancora capire, sappiamo che è morto, dobbiamo ancora capire per mano di chi, sì. visto che la madre è stata fermata. Se la madre non è, la madre sa? Se parli lì, lì è un'altra vicenda sulla quale, guarda, io mi astengo. Come, però devo chiederti una cosa: tu fai TV da anni, cara Paola, sì. e allora, come sai, sono partite subito le polemiche. Ieri, tra l'altro, ho partecipato a un dibattito alla Statale di Milano, qui in università, proprio sulla comunicazione. C'erano molti anche giornalisti a dire: ma insomma, non è più giornalismo, la TV, questa TV del dolore. Questa... Ma io dico, ragazzi, ma c'è il telecomando, se si rispettano ovviamente tutti la deontologia professionale, per carità, fondamentale, eccetera. Per il resto c'è il telecomando, c'è la scelta. Se poi si fanno quei programmi che immancabilmente conquistano il 20, il 25, il 30% di share, la gente li guarda. Ma che deve fare? Cioè, è così un male parlare di queste cose? Io, per detto per inciso, ieri non ho visto neanche mezzo secondo di tutti i programmi, di tutte le vicende, di tutte che riguardavano, perché non mi interessava, avevo altro da fare, ma non avrei trovato nulla di male a guardarli. Allora, però, Paola, Alessandro, da una parte se tu ti occupi di programmi di cronaca, questa è la cronaca e della cronaca parli, questo è uno. Due, come sempre, in tutte le cose ci vuole misura, se metti 10 cucchiaini di zucchero nel caffè non è più caffè. Ok, di contro, se lo usi lo zucchero in maniera moderata, metafora ovviamente, riesci a berlo. Un tempo c'erano le case di ringhiera, ci sono ancora al giorno d'oggi, voglio dire, sono bellissime, ma intendo dire, c'erano le case di ringhiera o c'erano i tribunali, dove quando c'erano i processi, i tribunali pullulavano di gente che andava a vedere quella che non sapeva essere TV dal vero, cioè andavano a vedere che cosa succedesse e a fare il tifo e a capire. Alla stessa maniera la TV racconta, non deve fare processi, su questo non ci sono dubbi, ma quando i fatti sono, come dire, ampiamente raccontabili, perché ci sono delle verità che vengono, come in questo caso, assolutamente nascoste, è naturale che tu racconti che una verità venga nascosta. Dopodiché, se questo fa orrore, se questo non piace, che si cambi canale, sì. È il tono che fa la musica. No, ma c'è. Ah, guarda, io col mio maestro, il mio maestro Giancarlo Santalmassima, ha sempre detto: di tutto ti puoi occupare, di tutto. Dipende sempre dal come, da come le fai, da come fai le cose. Questa è la cifra che. Se fai il Gran Guignol, la cifra è sbagliata. Se lo fai in maniera corretta, la cifra è giusta. Però mi diceva sempre: ricordati, non esiste argomento tabù. Esistono dei modi tabù, assolutamente, e quindi basta questi moralistoni a dire no, non bisogna occuparsi di una madre che forse dice la procura, ha ucciso un bambino, vorrebbe guardare nel buco della serratura. Ma di che cosa? No. Ma è un ma fatto di cronaca clamoroso. È un fatto di cronaca clamoroso e va raccontato. Ma che siamo? E piuttosto va capito, perché anche lì, attenzione, capiamo come. Vi porto un esempio, in questo momento non si è capito se questo bambino fosse stato un bambino violentato, fosse stato un bambino abusato. Andiamo a prendere tutti i disegni di scuola di questo bambino, ce l'hanno insegnato, ce lo insegnano i psicologi che andiamo a disturbare quando si parla di bambini che sono sottoposti alle mani dell'orco pedofilo. Di solito i disegni di questi bambini sono disegni che raccontano. Allora, andare a cercare, perché il centro può essere piccolo, potrebbe essere successo a Loris, a New York, va bene? Non dico a Roma, a New York, ma bisogna capire, questo non restituisce la vita al bambino, ma fa capire il pericolo intorno al quale, per esempio, all'interno del quale vive il secondo fratellino, se pericolo è. E tra l'altro c'è chi ci scrive a questo punto: tirate fuori Dini, ma non risponde Luca Dini, è inutile che continua. Sta seguendo William e Kate, Luca Dini, basta. Basta, questa cosa di William e Kate, questa attenzione spasmodica su William e Kate, chi se ne frega. Ritorniamo alle cose diciamo un po' più soavi, cara Paoletta, ti faccio sentire un paragone, così adesso mi dai un voto, hai dato un voto a Renzi e l'hai peraltro evocato tu, l'hai chiamato tu, il nostro Peter Bescapè. Così viva gli alpini. Senti. È Silvio Berlusconi. Perché probabilmente, non so come dirti, forse sì. A scuola il francese non si studia tanto, quindi già Renzi si è lanciato in una... Non so che lingua più studiata a scuola, ma insomma si è lanciato nel francese. Sì, si è lanciato nel francese. Senti Silvia, sì. Lo sciacamlotte da sede, vabbè, insomma. Come Maurice Chevalier, chansonnier. Allora, adesso devi prendere una posizione: meglio Renzi o Berlusconi? Francese. Il francese di Berlusconi c'è tutto. Se vogliamo parlare di francese, ribadisco: io sempre no, io volo avanza guarda. Però Renzi, voto positivo anche al coraggio. All'impegno. E parlo francese. Allora, però ieri Renzi cosa ha fatto, cara Paola? Ha parlato alla nazione, perché guarda che ancora oggi esondano dai giornali le intercettazioni su Roma. Roma ormai ogni giorno è sempre più uno schifo e il buon Matteo Renzi ha fatto un discorso un po' tutti dicendo basta, adesso i ladri verranno puniti. Saranno i giudici a capire se quello è un reato mafioso o più banalmente si fa per dire un atto di corruzione. Io però ho da prendere un impegno con i cittadini, che è quello di fare di tutto perché finalmente in Italia chi ruba paghi. Paghi fino all'ultimo centesimo, paghi fino all'ultimo giorno. Ecco, io adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi magari approfondiamo, cioè il traffico e poi la segreteria telefonica e rientriamo. Però, cara Paola, una cosa la devo dire. Mi sa già di un già sentito di 20 anni fa. Io queste cose, d'ora in poi, adesso basta. E tu sai che io nel mio inguaribile ottimismo, adesso togliamolo, lo sta dicendo Renzi, proviamo a pensare che si debba giustamente dire, penso, che dopo averlo già sentito 20 anni fa, l'importante è che lo si faccia. Appunto, perché 20 anni fa l'abbiamo sentito, adesso abbiamo preso i manigoldi però il risultato è che si ruba molto più di prima, perché le cifre sono aumentate. Questa è la tragedia. Quindi no, per dire, giustamente, l'immancabile ottimismo di Paola Saluzzi è giusto, però è chiaro che nel momento in cui lo dice non può allora... Se avessimo la bacchetta di Mago Merlino, magari per risolvere tutto sarebbe già fatto. Adesso bisogna partire. Domani c'è un decreto, si allungheranno i tempi di prescrizione. Il Corriere della Sera. Faceva una splendida intervista l'altro giorno e diceva: c'è il clima del 93, la gente per strada mi ferma e mi dice. Lui che tra l'altro all'anticorruzione non può arrestare nessuno, insomma è un altro organismo. Comunque, da qui ripartiamo tra un attimo, dopo anche la segreteria telefonica. Il Corriere della Sera racconta che i tecnici del ministero sono già un po' preoccupati perché l'annuncio è stato fatto adesso basta, ma tecnicamente non si capisce che cosa si possa fare per allungare i termini di prescrizione. 24 mattino. Per i vitalizi hanno lavorato pochi anni e poi quando pochi anni, a volte pochi mesi, e prendono migliaia di euro al mese, dico facciamo ricorso, senz'altro il ricorso. E noi poveri disgraziati, dopo 30-35 anni di lavoro sudato, ti danno 1.100 euro e vanno pure a rasare sopra. Porci! Mira, ci meravigliamo dei fatti di Roma, ma sono cose normali, lo sa tutto il mondo, la politica è questa in Italia, è inutile meravigliarsi, è tutto così, inutile. Ciao Milan, ascolta, fai un po' il serio, prima Rossella Brescia, adesso Maria Elena Boschi, non si fa così, Milan si dice incazzare, incazzare, noi in cazze, incazzare, e chiamiamo. Questa gente che ruba così a Roma si deve arrestare, si devono restituire i soldi, si vendono la macchina, la casa, ci vendono tutto, le devono lasciare a piedi, senza scarpe. Italia primi in hit parade. Com'è bello con la mafia da Trieste in giù, com'è bello fare in ciucci, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi intampido gli ova, tanti auguri con gli zingari a Ricchira. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. Non male, Paoletta. Si è scatenata proprio una creatività straordinaria. Sì. Anche quello della Carrà non l'ha immaginato. Hai visto. Questo del ricorso, i ricorsi, com'è che dice? Ricorsi vitalizi. Tra l'altro noi avremo ospite Severino Galante alle 8.40, ex consigliere regionale del Veneto, ex parlamentare, ha due vitalizi, è un docente universitario, quindi ne avrà tre di pensioni, e però ha scritto una lettera accorata dicendo: non toccatemi il vitalizio perché scateno una serie di ricorsi che non immaginate, se me lo toccate nel 5% vogliono in Veneto. Puoi dire la tua? Ma lo ascolterò con molta attenzione. Va bene. Evidente, no. Poi lui chiaramente si appellerà, non lui in questo caso, ma insomma, acquisiti. No, al fatto che uno dica no, cioè, e allora è stata sbagliata la legge all'inizio, senz'altro è stata sbagliata la legge all'inizio. Famo qualcosa, ha detto alla romana. Siamo romani, volemo se bene, damo se da fa. Vabbè, insomma, questa cosa di Roma, intanto no, sentiamo ancora Renzi. Renzi dice praticamente bisogna alzare la pena minima. Tu dicevi sì. A sei anni, no, insomma, alzare la pena minima a sei anni per la corruzione, cioè alzare le pene, questa è la strada, sentiamolo. Si alza la soglia minima, la pena minima della corruzione da 4 a 6 anni. Che significa che se tu hai rubato puoi patteggiare, ma comunque un po' di carcere lo fai. È rimasto colpito Renzi a dire che 238 persone sono in questo momento in carcere per corruzione. Tra i 50.000 carcerati, 238 poco più sono in carcere per questo tipo di reato. È una cosa abbastanza clamorosa, effettivamente. Noi ne abbiamo fatto, permettimi, Alessandro, alla Sky TG24 con il nostro direttore, ne abbiamo fatto proprio uno speciale raccontando appunto questa disparità di numeri tra l'Italia e il resto d'Europa, per esempio, no? Per non dire il resto del mondo, ecco, non per voler riempire le carceri, perché poi alla fine il problema è opposto, bisogna lavorare per far respirare le persone che ci sono dentro, però effettivamente sono dei numeri che in Italia non tornano. Effettivamente rispetto agli altri. Addirittura, tra l'altro, di condannati in via definitiva, una volta Cantone fece un'intervista a dire forse neanche così, forse 4, 5 sono. Si arriva a dei numeri che forse arriveranno a 10, 11. Numeri assurdi, cioè se si pensa, quando si dice siamo uno dei paesi più corrotti nel mondo, in tutte le classifiche e dalle inchieste, e poi uno va a vedere ci sono 3, 4, 5 persone che stanno scontando il carcere per questo tipo di reato, c'è qualcosa che non va, effettivamente. Le classifiche di Transparency stabilito che sono non ci sono i numeri esatti di come venga sulla percezione del fenomeno corruzione nel nostro paese, ci mette veramente siamo l'ultimo vagone. Effettivamente siamo l'ultimo vagone e questo fa male. Effettivamente. Invece se dobbiamo attrarre investimenti, questo fa male. Senti un po', ma tu farai il presepe a casa tua? Io ho fatto già l'albero di Natale. Ti ho chiesto se farai il presepe, adesso tu mi dici l'albero di Natale. Il presepe non è il presepe c'era nella mia famiglia, perché si andava a Potenza dai nonni, però a casa nostra, papà, mamma, mia sorella, si faceva sempre soltanto l'albero. Il presepe, un giorno prima o poi comincerò a farlo anch'io. Vabbè, allora senti il buon Crozza su Salvini. Dove l'ha messo? Crozza, non lo so, la sento anch'io come te, è in diretta. Impresa diretta. Pare sia buona però. Salvini, ma cazzarola, lei dovrebbe odiarlo il presepe, Salvini! Mi segua, nel presepe c'è

Libero racconta che alcuni vescovi sardi premono per usare la loro lingua nelle funzioni e il Papa sarebbe pronto a dire sì. Non vi dico e non vi leggo per non fare scempio della lingua sarda, del dialetto sardo, come inizia l'articolo di Caterina Magnaci, che comunque è il Padre Nostro in sardo. Ecco, dopo ve lo leggerà Peter Bescapè in sardo e lo metteremo su Facebook. Mentre Il Giornale con Francesca Angeli, pagina 23, poco polso e cattivi esempi, i figli copiano i vizi dei padri. Sappiate, cari padri, e lo dico anche a me stesso, che i divieti cadono nel vuoto perché i genitori sono incapaci di dare regole ai ragazzi. Non esistono più i no. È una pagina tra la psicologia, la pedagogia, come si crescono i figli. Un ragazzino su 4 gioca d'azzardo, un ragazzino su 2 fuma di nascosto. Questo perché, scrive Il Giornale in questa pagina, intervista varie psicologhe e psicologi, i padri non sono più in grado di dare esempio. Vabbè, siamo al momento conclusivo. Dopo aver detto che la Juve è passata agli ottavi di Champions League, ma uscirà prima o poi, speriamo che... L'articolo più inutile scovato sui giornali è questo. Quanto mi odiano, ma avete capito che io un po' scherzo, amici juventini, un po' scherzo, no, non l'avete capito, un po'. Renzi e Suor Cristina sono i fenomeni da YouTube, mezza pagina su Il Fatto Quotidiano di Valerio Venturi, i più cliccati di video, Renzi che parla, si fa per dire in inglese, e Suor Cristina. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, il Senato americano ha pubblicato un rapporto nel quale si legge che la CIA nell'epoca dell'amministrazione Bush usò la tortura nei confronti di molti prigionieri, di persone imprigionate dopo l'attentato dell'11 settembre. Torture psicologiche e fisiche, che ne so, privazione del sonno, botte, finte esecuzioni, umiliazioni, privazioni, il waterboarding, cioè la tecnica dell'annegamento simulato, una sorta di lista degli orrori che in nome della trasparenza l'amministrazione Obama ha voluto denunciare per dire mai più. Così ha parlato proprio Obama. Some of the tactics that were written about in the Senate intelligence report were brutal. Obama parla di alcune tecniche brutali e dice: non siamo quelli. Io ho bandito, ho vietato queste tecniche che non ci saranno mai più. L'America ovviamente si è divisa, così il mondo si divide. C'è chi ritiene tutto questo giusto, un'apertura e una pagina di trasparenza. Siamo una democrazia, dunque denunciamo queste cose, dice l'America. Altri invece dicono: bravo Obama, questo è il classico assist ai terroristi, a coloro che ora troveranno un pretesto ulteriore per attaccare, per criticare, anche magari rinfocolare il terrorismo. D'altronde, si sa, in una guerra i mezzi giustificano il fine. Intanto voglio salutare, lo ringrazio e sveglio per noi di notte, Edward Lutwak, politologo dagli Stati Uniti. Buongiorno Lutwak. Sto lavorando, sono sveglio. Le chiedo questo: secondo lei è stato giusto o sbagliato pubblicare questo rapporto? È un bene o un male per l'America e per il mondo? Prima di tutto, questo rapporto è stato pubblicato dal comitato dell'intelligence del Senato, che per prossime settimane ancora sotto il controllo dei democratici, il chairman è democratico. Fra qualche settimana, siccome hanno perso le elezioni malamente, il Senato va sotto il controllo repubblicano e quindi si sono affrettati di pubblicare, perché fra qualche settimana, quando è sotto controllo dei repubblicani, sicuramente non l'avrebbero pubblicato. Questo è... Ora, l'altra cosa è che l'amministrazione Obama all'inizio, molti anni fa, aveva questa idea di investigare i singoli funzionari della CIA, agenti CIA, impiegati CIA, per determinare colpevolezza. Quindi infatti loro hanno preso i loro risparmi, hanno preso avvocati per proteggersi, perché erano minacciati da processi, eccetera. L'amministrazione Obama ha abbandonato questa cosa. c'era questa determinazione di punirli come una via retroattiva di punire l'amministrazione Bush, in realtà, sì. I poveracci minacciati di essere addirittura processati. E poi però hanno abbandonato, questo l'hanno abbandonato, semplicemente abbandonato. Quindi c'è un rapporto che dice che la CIA è colpevole, ma i signori non verranno processati, identificati, non verranno processati. Ma mi dica dal suo punto di vista, cioè, se è stato giusto, cioè, in nome della trasparenza, per Obama fare questo. Beh, oppure... allora, la prima cosa è che dopo l'11 settembre c'era una preoccupazione, cioè il 12 settembre, il 13 settembre, perché non si sapeva che questo attentato, infatti, non era stato fatto da questa organizzazione chiamata Al-Qaeda, era stato fatto da due particolari persone che erano collegate, generalmente collegate con Al-Qaeda. Un signore era un ingegnere tedesco di origine egiziana, però un ingegnere tedesco, non qualche contadino o qualche nomade o qualche beduino, ma un ingegnere tedesco di origine egiziana. L'altro, Khaled Sheikh Mohammed, sì. Un laureato dell'università di americana, uno che ha studiato business and management in America. Che ha subito 180, ha subito sì. 183 volte il waterboarding. Sì, beh, 183. Quando l'hanno preso in Pakistan, lui ha detto, vi vedrò a New York con i miei avvocati. Quando l'hanno preso, lui è stato quello che ha fatto il piano dell'11 settembre. Sì, certo. Piano di ha ucciso 3.000 plus persone, 4.000 persone, quello che era. Che ha bruciato questo edificio, ha obbligato gente di saltare e uccidersi. Questo signore, quando è stato preso in Pakistan, sorridendo, ha detto: vi vedrò a New York con i miei avvocati. Ma quindi le chiedo, è stato invece giusto trattarlo così? Perché... Guarda, la preoccupazione di... Allora, dopo che subisci un attacco come l'11 settembre, se c'hai un'organizzazione che è pagata per proteggere lo Stato... Da questo tipo di attacco, se hai questa organizzazione, se queste persone non sono dei mangiapani a tradimento, ma sono gente seria, la loro preoccupazione è di evitare il prossimo attacco, perché non si sapeva. Con tutti, tutti i mezzi. Pensavano che questa organizzazione, che aveva migliaia di persone, aveva pianificato perlomeno 5 nuovi attacchi. No, ma è interessante. Erano questo. Migliaia di persone è interessante. Cioè, di soldi. Lei in qualche modo ci fa capire che, tra l'altro, devo dire, c'è chi mi scrive la citazione esatta: il fine giustifica i mezzi. Lo so anch'io. La questione proprio opposta è che qualcuno dice in questo caso i mezzi, cioè le torture, giustificano il fine, come un po' ci sta dicendo Lutwak, cioè il fine era quello di evitare che ci potessero essere nuovi attacchi. Però, Lutwak, le voglio presentare l'onorevole Claudio Fava del Partito Socialista Italiano Liberali per l'Italia, è vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Buongiorno Fava e benvenuto. Buongiorno. Lei però da eurodeputato fu anche eletto eurodeputato dell'anno perché insieme, ovviamente quando faceva quel lavoro, indagò molto su quello che fu il sistema delle extraordinary rendition, cioè la CIA andava in pratica a prendere le persone in giro per il mondo, anche a Milano ne prese uno e li portavano nelle prigioni per indagare e probabilmente anche torturare. Le chiedo, Fava, ha sentito Lutwak dice sì. che bisogna fare? Si temevano altri attentati e quindi in qualche modo la CIA si comportava di conseguenza. Ma quando abbiamo costituito quella commissione d'inchiesta abbiamo a lungo ascoltato anche l'amministrazione americana, l'amministrazione Bush, e questa era un po' la loro linea. Loro dicevano: siamo di fronte a un attacco non convenzionale e riteniamo che anche gli strumenti del diritto internazionale, a cominciare dalla Convenzione di Ginevra, che sono stati costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale per guerre convenzionali, non abbiano più alcuna efficacia, e compreso anche la possibilità, il divieto di arrestare, detenere una persona e poi affidarla alle cure di un paese in cui si pratichi la tortura o la pena di morte, che era esattamente ciò che avveniva con l'extraordinary rendition. Dicevano: siamo tenuti a farlo perché la sicurezza del nostro paese viene prima di ogni altro diritto e dobbiamo perseguirla, proteggerla, garantirla con ogni mezzo. E su questo ci sono due obiezioni che sono state poi in parte elaborate dall'amministrazione Obama. La prima è che se noi decidiamo che davvero sia giustifichi ogni mezzo, decidiamo di essere uguali ai nostri avversari, ai nostri antagonisti, e lo dico non soltanto pensando a quello che è successo negli anni successivi all'11 settembre, penso anche a quello che è successo negli anni successivi a Capaccio, a Via D'Amelio. Se avessimo deciso di utilizzare gli stessi strumenti, una volta arrestati, catturati alcuni capi mafia, alcuni macellai di Cosa Nostra, avremmo potuto immaginare che la sicurezza del paese meritasse, non so, anche il waterboarding nei confronti di Torina, di Bernardo Provenzano. Quindi lei dice una democrazia invece deve avere la forza di essere superiore. Io penso che siamo figli di Cesare Beccaria e che la forza della nostra democrazia, la forza del diritto, è che noi riconosciamo al peggiore dei nostri criminali, al più torbido dei nostri imputati, tutti i diritti che sono previsti dal codice. E invece l'amministrazione Bussi dice: noi questi diritti non possiamo riconoscere, e per far questo decidiamo che questi presunti terroristi che la CIA raccatta in giro per il mondo, invece di portarli davanti a un tribunale americano perché non reggerebbero all'urto probatorio preteso da un tribunale americano, li affidiamo alle cure dei servizi siriani piuttosto che di quelli egiziani, sapendo che lì saranno molto più spicci, molto più sbrigati. Sì, sì. Il primo punto, diciamo, è questa scelta di azzerare, diciamo, la tenuta etica di una democrazia, di un sistema costruito sulla preminenza e la priorità dei diritti. Il secondo è la totale inefficacia di tutto questo, perché la storia poi ci risponde in questo modo. Noi abbiamo esasperato e esacerbato tutti coloro che si trovano dall'altra parte di questa linea immaginaria tirata tra il mondo occidentale e il mondo islamico, anche costruendo una serie di errori giudiziari catastrofici. La nostra commissione d'inchiesta ha ricostruito almeno 28 casi di errori giudiziari che però hanno determinato non qualche giorno, qualche mese o qualche anno di galera in alcuni casi anche vite distrutte, ma guardi che anche in questo rapporto torture pesanti che naturalmente gli americani non facevano. La CIA diceva: occupatevene voi. E sì. I siriani, che erano considerati un paese canaglia ma che andavano bene per fare il lavoro sporco, tenevano in una prigione segreta un ingegnere canadese di origine siriana che vagamente poteva avere a che fare con il terrorismo islamico, e l'hanno tenuto per 10 mesi torturandolo 12 ore al giorno. Alla fine questo è stato liberato. Ma di errori pare che ce ne siano stati anche in questo rapporto. Vorrei tornare da Lutwak a dire, senta professore, ma è vero che adesso in America l'allerta è massimo in molti paesi perché si temono ritorsioni? Questa è l'accusa che una certa America fa ad Obama, cioè dire: ci esponi adesso a nuove ritorsioni da parte dei terroristi in tutto il mondo? Non c'è un frammento di informazioni che suggerisce che ci sono ritorsioni, eccetera. Prima di tutto, come avete appena sentito, la CIA stessa ha usato dei metodi che hanno risultato nella morte di nessuno e nella ferita fisica di nessuno. Danno psicologico sicuramente c'è, non si può valutare, ma tutte queste orribili torture però non comportavano né uccisioni né ferite. Però anche una tortura. No, non dico che erano simpatico, dico solo questo fatto. Mentre le extraordinary renditions, cioè la CIA appunto non voleva uccidere, non voleva torturare sanguinamente, tagliare la gente a pezzi, fare queste cose, quindi l'hanno dato ai stati arabi, perché ogni stato arabo, anche più gentile, più carino, che compra magari l'Italia e così via, sono stati dove quando ti arrestano ti torturano. Ma non è la stessa cosa essere complice di un torturatore. Allora la rendition era il risultato del fatto che quelli della CIA prendevano questa gente, sapevano che anche usando tutti questi metodi che adesso sono criticati, erano comunque metodi non abbastanza forti secondo la loro opinione di questi signori, e quindi li davano a qualsiasi paese arabo. E questo è un non ho capito. Darlo a un paese arabo. Vabbè, ma per lei questa è una cosa giusta o sbagliata? Non si tratta di una cosa giusta, si tratta di un errore di tempo, perché il 17 febbraio 2003, quando hanno preso Abu Omar nella strada di Milano, Questo non era l'11 settembre, il 12 settembre, il 13 settembre. Qui erano passati già un anno e mezzo, due anni, si sapeva che non c'era in realtà. L'Al-Qaeda era un'altra banda di fanfaroni, mm-hmm. C'erano solo due o tre efficaci che non avevano la potenziale di fare grandi attacchi terroristici uno dopo l'altro come si pensava nel ottobre, un mese dopo, una settimana dopo, due mesi dopo. Cioè, a maggior ragione lei ci sta dicendo che era inutile. Non c'era giustificazione. Appunto, era inutile non farlo. Ogni giustificazione che c'era nell'immediato, perché ricordati, Totò Riina è un cittadino italiano, questo non erano cittadini americani, questi erano il nemico straniero che ti attacca. Mm. In tempo di guerra uno non porta gli avvocati, quando c'è il nemico si spara il nemico e lo uccide il nemico. Quindi questi non erano cittadini americani, non erano in America, erano catturati sul campo di battaglia, la maggior parte catturati in Afghanistan, che erano arabi e così via, andati fino all'Afghanistan per combattere, per fare cose, non suppongo. Insomma, per però, fare a maggior ragione io vorrei capire, no, ma è chiaro, vorrei capire. Quindi, Claudio Fava. C'è una differenza di tempo. Sì, una differenza di tempo. Cioè, ma lei ci sta dicendo che non erano Fava, che effetto le fa sentire anche da Lutwak a dire che. Beh, di fatto è una ricostruzione un po' sommaria. Il caso che io facevo di questo ingegnere canadese di origini siriane, il caso di un cittadino canadese che è stato arrestato all'aeroporto di New York mentre è in transito con la famiglia, veniva la ragazza in Tunisia, l'hanno arrestata a New York, l'hanno tenuto per due settimane segregato a New York e poi l'hanno caricato su un volo della CIA che, come sappiamo, affittava aerei da compagnie private e li trasportava in giro per il mondo, mm-hmm. L'hanno portato in Giordania, da lì in Siria e da lì è stato tenuto 10 mesi. Questo signore si è salvato solo perché era un cittadino canadese, per cui diciamo, quando la famiglia si è rivolta alle autorità e ai giornali canadesi non è stato possibile farlo scomparire. Ma i 28 casi che abbiamo ricostruito noi erano tutti cittadini occidentali, avevano il passaporto britannico, tedesco, di altri paesi e la loro scomparsa è stata impossibile. Noi abbiamo la certezza che accanto a queste storie ricostruire ci sono centinaia di altre cittadini realmente come si è scomparsi, pakistani, afghani, egiziani, di cui nessuno sa più nulla, ma non necessariamente trovati come sul terreno di battaglia. C'era un'attività di intelligence della CIA che ogni tanto aveva qualche clamorosa falla. Vincent Cannistraro, che era il capo del counter-terrorism della CIA, si dimise in violenta e frontale polemica con la gestione della CIA dicendo non serve, non c'era nessuna, come dire, pregiudizio. Beh, ma in qualche modo ce lo dice anche Lutwak, almeno non nell'immediato, ma più avanti non serviva. Però per concludere questa pagina, Fava, mi faccia capire, lei almeno è soddisfatto dell'apertura americana dell'amministrazione Obama, che dice non in modo che questo non accada più in futuro? È un'apertura positiva? Ovviamente sono soddisfatto, mi sembra che arrivi in ritardo, nel senso che sarebbe stato, come dire, coerente ed utile che questa cosa, questa disclosure, Obama l'avesse non solo proposta ma anche realizzata all'inizio del suo mandato, invece, come ricordava Lutwak, di arrivare negli ultimi giorni utili prima che la maggioranza repubblicana prenda il controllo del Congresso. Detto questo, è bene che sia arrivato, perché io non credo che ci saranno ritorsioni. Credo che da questo punto di vista la forza della verità, la coerenza della verità sia sempre una grande risorsa per i cosiddetti paesi occidentali, anche per, come dire, non offrire pretesti ai propri antagonisti, ai propri avversari, ai propri nemici. Anche perché è ritorsione, voglio dire, un terrorista non ha mai bisogno di un rapporto per colpire l'Occidente e l'America. Se un terrorista vuole colpire e trova al limite dei pretesti stupidi e insensati. In ogni caso, vi ringrazio Claudio Fava, che è il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, lo ricordo, e ringrazio Edward Lutwak per essere stato con noi. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di Italia. Ieri abbiamo raccontato la storia di questo ex deputato, ex consigliere regionale del Veneto, che ha due vitalizi ed è un docente universitario, quindi avrà una terza pensione, che ha scritto un'accorata lettera dicendo: non potete toccare il mio vitalizio perché 1, 2, 3 ci spiegherà i motivi. 24 mattino. Allora, abbandoniamo le questioni americane, veniamo alle 8.40 a parlare un po' di Italia. Parliamo di vitalizi perché ieri abbiamo letto sui giornali e abbiamo oggi ospite una persona che è un docente universitario, oggi è stato però consigliere regionale in Veneto, è stato anche parlamentare, si tratta di Severino Galante, che saluto, buongiorno professore, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno professor Galante, allora lei è un po' in questo momento sotto i riflettori, perché lei è stato consigliere regionale del Veneto dal 95 al 2004 e poi parlamentare in due occasioni, dal 92 al 94 e dal 2006 al 2008. Ci può dire l'ammontare dei suoi due vitalizi? Quello complessivo? Sì, faccia lei, insomma. Grosso modo sui 6.500 euro. 6.500 euro netti. Mi risulta 2.800 circa netti dalla regione e il resto dal Parlamento, diciamo. Sì, sì. Allora, lei ha preso carta e penna perché al Consiglio regionale del Veneto vogliono fare un contributo di solidarietà, chiamiamolo così per capirci, cioè tagliare un pochino. Tra l'altro, per chi ha due vitalizi come lei, vogliono tagliare di più, credo il 40% del vitalizio regionale. Il 40% in più, cioè diventa il 50%. Insomma. Il 50%. E lei ha preso carta e penna a scrivere a tutti i consiglieri regionali a dire non fate questa cosa, perché lo ha fatto? La domanda è francamente singolare, perché ho un diritto da difendere, perché ho un interesse legittimo da difendere. È un interesse, cioè qualsiasi cittadino, sì, che si trovi in una situazione nella quale un suo interesse, voglio dire, è garantito dalla legge, non ottenuto con la violenza o in altre forme illecite, viene minacciato di essere manomesso da qualche altro, mi pare che ha il diritto di dire state attenti, perché se lo fate io vado in tribunale. E tra l'altro avrà ragione, la verità è questa, che se lo fanno e lei ricorre, avrà ragione lei, questa è la... Io immagino di sì, perché ritengo che la legge stabilisca che un cittadino possa fruire di ciò che ha in qualche modo meritato, o lasciamo perdere il meritato, ottenuto, sì, durante la sua, in base alla legge, professionale. Una cosa che l'ha fatta arrabbiare è proprio questo, che chi ha due vitalizi come lei otterrebbe un taglio, un contributo di solidarietà che arriva fino al 50% del vitalizio. Quindi lei come la vede? Una discriminazione rispetto a chi ha un solo vitalizio? Sì, non è che mi ha fatto arrabbiare, dico che chi sta pensando una legge del genere è un analfabeta sotto il profilo costituzionale, perché la Costituzione, eppure è un legislatore, sia pure regionale, perché la Costituzione stabilisce che i cittadini sono uguali davanti alla legge, chi si trova nella stessa situazione non può essere trattato in maniera diversa dal suo simile che appunto ha le sue medesime caratteristiche. E quindi c'è un vizio di costituzionalità proprio nell'impianto. Però io leggo dal Gazzettino Veneto, reazione alla sua lettera, un articolo di Alda Vanzanda, da parte dei consiglieri regionali, vergogna, inaccettabile, inconcepibile, di questi tempi. Lei, ecco professor Galante, lo dico anch'io, ma di questi tempi, non le sembra un po', come dire, vergognoso difendere... Tanto mettiamo sul tema del rapporto tra moralità e legalità, ci sarebbe da scrivere dei trattati, no? Quindi io non ho complessi di colpa, soffre di complessi di colpa chi ritiene di avere delle colpe, io no, non ritengo di averne, so di aver commesso nella mia vita politica lunga, 50 anni, parecchi errori politici, non ho commesso colpe e tantomeno ho commesso reati contro la collettività. E come reagisce dunque a questo coro di sdegno da parte dei consiglieri regionali? Dico che sono degli attuali consiglieri regionali, dico che sono degli ipocriti. Degli ipocriti, però dicono anche, ricordano il suo passato, cioè lei è stato nel PC, in Rifondazione Comunista, nel Partito dei Comunisti Italiani, cioè di partiti che sono molto attenti anche alle esigenze del popolo, cioè a molti ascoltatori che l'ascoltano adesso, lei che dice? Vabbè, non ho rubato nulla e ci sta. No, ma ci aggiungo anche, lei ha ragione a pormi questo problema, ma vede, c'è una bella differenza tra essere un comunista e essere un pauperista. I populisti sono contro la ricchezza e contro il denaro, pensano che sia sterco del diavolo. Lei no, immagino. No, io proprio no, Io lotto contro lo sfruttamento economico dei lavoratori e contro i super profitti che esso genera. È questo che caratterizza i comunisti, quella che viene chiamata più volgarmente la lotta di classe, non la lotta di casta. È lotto per aumentare la ricchezza e per aumentare il benessere dei cittadini in generale. Sì. E quindi il problema che si pone non è se io sono o non sono un comunista, ma se chi oggi mi critica e mi contesta è d'accordo sulla posizione che hanno i comunisti su questo tema, e cioè di una redistribuzione generalizzata della ricchezza di questo paese, che è veramente iniqua, sì, e dentro a questa anche di una redistribuzione che mi riguarda. Sa cos'è, professor? Sa qual è la questione, Galante? Che hanno fatto notare, lei fa politica da 50 anni, ma i vitalizi che percepisce li percepisce per 15 anni di Parlamento nazionale. A parte che poi su questo, anche su questo si può ragionare. La maturata per questo, per i 15 anni di politica. Poi lei farà politica da 50 anni, ma da eletto è stato 15 anni. No, mi faccia inesatto tecnicamente, non sto dicendo che è inesatto. Perché è inesatto? Perché è vero che la durata effettiva dei mandati che io ho ricoperto è di 16 anni. Tuttavia, per ottenere quel reddito, giusto o sbagliato che sia, io ho dovuto versare altri 9 anni di contributi, perché ogni legislatura è 5 anni e il totale fa 25. Ho capito, però c'è un po' una sproporzione. La sproporzione. Sulla legalità o meno. No, questo no, però c'è una sproporzione tra quanto lei ha versato e quanto ha ricevuto, come tutti vitaliziati dalla politica. Nessun pensionato versando quello che lei ha versato avrebbe ottenuto una pensione che proviamo a fare i conti? Sì, se vuole. Per radio è un po' difficile, ma insomma. Allora io, a me piacerebbe fare i conti per poi vedere qual è l'effettivo versamento che c'è stato e qual è la rendita che da questo. Però guardi che non è che glielo vogliono togliere il vitalizio, vogliono chiedere un contributo di solidarietà. Lei non può saltare di palo in frasca se me lo vogliono togliere, me lo vogliono ridurre. E ridurre? Io in questa fase me lo voglio ridurre del 50%, la riduzione modestina, me lo vogliono ridurre. E io ritengo che sia invece un mio diritto, perché lo sto già percependo, non perché è un diritto che aspetto di avere, non è un cosiddetto diritto acquisito o acquisito come volgarmente si dice, è un diritto in atto. Tra l'altro le vorrebbero dimezzare solo quello regionale, che è quello minore dei due. Quello da 2.800 euro. Che sia maggiore o che sia minore è indifferente sotto il profilo del principio. È il principio. È l'interesse di fondo, è l'affatto di salvaguardare un diritto proprio. Ma lei, professor Galante, questo l'ha chiarito, è docente universitario, no, se non sbaglio? Sì. Quindi lei percepirà anche una pensione da docente universitario un domani? Indubbiamente. Sì. Indubbiamente. Tre pensioni, va bene così? Ma scusi, sa quant'è il mio reddito complessivo? No. Glielo posso anche dire, sia pure per sommerine. Io appartengo alla categoria dei ricchi contribuenti, dei più ricchi contribuenti in questo paese. Diciamo che il mio reddito si colloca tra i 100.000 euro da una parte, e all'altro estremo il reddito di Marchionne, che mi pare sia di 7 milioni di euro all'anno. Vabbè. Lei ritiene che sia scandaloso il mio reddito, che è vicino ai 100.000, o quello di Marchionne, o quello di altri noti esponenti? Vabbè, Marchionne è un manager nel mercato, può essere scandaloso, certamente. Però è la legge del mercato, è la legge generale, perché la legge del mercato deve prevalere. Può essere scandaloso lo stipendio di Marchionne, ma può essere anche scandaloso ricevere tre pensioni. Rispetto a chi non ne riceve neanche una, io forse non la prenderò mai. Caro, per ma le ho appena detto che il tema non è quello di rovesciare su un pezzetto della piramide iniqua dei redditi italiani tutti i problemi della piramide. C'è una piramide, per l'appunto, io sto in una posizione privilegiata di quella piramide, sotto ci sta parecchia altra gente, troppa altra gente, che si trova in posizioni negative, sopra ce ne sta altrettanta che si trova in posizioni molto migliori. Ridistribuiamo tutto, è d'accordo? Ah, ma io facciamo sono d'accordo, però hanno voluto ridistribuire, allora, e cominciare a prendere un po' della sua pensione. Le sto chiedendo se lei è d'accordo a sostenere una campagna dalla sua radio, sì, a sostegno di una ridistribuzione generalizzata. Dice, questa è una vera battaglia comunista, lei dice. In modo che quelli dei Barchione e dintorni si abbassino, e in modo di quelli delle migliaia di pensionati al minimo si alzino. Se lei è d'accordo su questo, sì, io sono pronto a rimettere in discussione, a non affrontare il problema del mio vitalizio, a tagliarlo, a dimezzarlo. La mette come se fosse una decisione che aspetta da me. Professor Galante. Ma lei può essere parte, la sua radio, sì, che è la radio della Confindustria, sì, può essere parte di questo tipo di campagna, di questo genere, e sicuramente sarebbe molto più autorevole di me. Va bene, io parlo una volta oggi in questa radio, lei ci parla sempre, quindi potrebbe essere utile che ci mettesse una buona parola. Intanto io, professore, la ringrazio e staremo a vedere, insomma, questa vicenda. Grazie, è stato molto gentile. Severino Galante, docente universitario, ex consigliere regionale del Veneto, ex parlamentare. 24 mattino. Vabbè, molti messaggi critici, ma insomma torneremo con il professor Galante a parlare di questo tema dei vitalizi, ma chissà se tutto questo è arrivato un po' in giro per il mondo. Sapete che noi in questo spazio Ciao Italia raccogliamo il parere di ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano da tutto il mondo. E oggi dove andiamo? Tanto abbiamo in onda Maria, so questo. Maria, buongiorno, dove sei? Buongiorno, sono a Istanbul. A Istanbul? E che ci fai in Turchia? Sono qua a lavorare. Va bene, sì, questo lo immaginavo. Purtroppo non sono in vacanza permanente. Tra l'altro leggo io, oggi tutti i giornali hanno pubblicato in Italia che non, dati Istat, non c'è mai come in questo periodo numeri così alti di persone che vanno via dall'Italia, sembra quasi fatto apposta. Maria, cosa fai a Istanbul? Cosa ci racconti da lì? Allora, io a Istanbul dirigo una fabbrica appartenente a un gruppo italiano che ha deciso di localizzare parte della sua produzione in Turchia. E quindi da circa un anno e qualche mese mi trovo qua. E che città è Istanbul? È bella? Beh, bellissima. Fantastica. Fantastica, perché tu nel giro di pochi minuti puoi passare da situazioni tipo Parigi, Londra, New York, a situazioni in cui ti sembra di essere in un souk. Quindi è veramente una commistione di culture, di storia e di fascino. D'altronde la Porta d'Oriente assolutamente fantastica. Maria, che pensi dell'Italia? Come ci ascolti intanto? Come ci segui? Ma io vi seguo attraverso applicazioni sul telefono, in podcast, in diretta sul computer, ormai ci sono mille possibilità, quindi non è più l'emigrante che una volta partiva e perdeva ogni contatto. Oggi io sono a Istanbul, ma parlo tranquillamente con gli amici in Italia. No, ma lo dico perché ieri mi ha scritto uno dalla Nigeria, un caro ascoltatore, dicendo: mi dà la frequenza per ascoltarci dalla Nigeria. Ho detto: caro ascoltatore, la frequenza in Nigeria magari sarà un po' dura da trovare, però ci sono ormai le tecnologie per ascoltarci da ovunque. E che idea ti sei fatta dell'Italia vista da lì? Parlano di noi a Istanbul? Allora, Istanbul, ma penso come nel resto del mondo, c'è una bellissima concezione dell'Italia e degli italiani. Per me, che sono italiana e vivo qua, mi accorgo che purtroppo siamo un paese un po' fermo, nel senso che quando io torno in Italia, parto lasciando buche, cantieri, torno in Italia dopo 2 mesi e le stesse buche, gli stessi cantieri che non sono conclusi. Qui invece c'è molta vitalità. Ti racconto un aneddoto che mi successe l'anno scorso. Ero appena arrivata, non conoscevo bene ancora le strade, facevo sempre la medesima strada per andare al lavoro. Per cui la mattina faccio la strada, la sera torno a casa col buio e mi sembra di non essere sulla stessa strada. E ma semplicemente nella stessa giornata su quella strada avevano fatto un rondò. Ah, in una giornata. In una giornata. In una giornata, così. A Istanbul, esatto, si fa una rotonda in una sola giornata, mi sembra giusto. Esatto. Questo, esatto, per dire anche l'immobilismo un po' del nostro paese. Maria, noi dobbiamo fermarci qui, intanto mandiamo un grosso abbraccio ovviamente a Istanbul, alla Turchia, a tutti voi. Continuate a seguirci, se volete anche potete scriverci, 24 mattino e radio24.it se ci seguite dall'estero. Non vi daremo le frequenze di Radio 24 in Nigeria, però se ci scrivete e volete partecipare a questo spazio Ciao Italia, noi vi chiameremo, uno di voi ogni giorno. Intanto ringrazio Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli in redazione, e il nostro mitico alpino Peter Bescapè in regia. È tornato qui, ti avevo detto che ti avevano fatto triturato e rivenduto come compost in qualche campo rionale, e invece sei tornato tra noi. E allora ci troviamo domani alle 6:30.